che ci fate pubblicità e siamo contenti che venga gente oltre Ferrara. È un onore per noi poter amplificare questa voce di una sede concertistica che non lo dico certo io, ma è la qualità tangibile con mano e soprattutto i riconoscimenti, l'attenzione, l'oggettività di un valore veramente importante, e siamo qui proprio al primo Last Minute in edizione straordinaria a parlare con il presidente del Torrione Jazz Club di Ferrara. Beh, io intanto, Federico, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e per questa pillola nel Last Minute che rassicura, che nello stesso tempo riporta una realtà in ripresa e sicuramente con un programma che non vuole perdere un millimetro della propria qualità, e nello stesso tempo la regolarità del mantenersi in sicurezza, che sono poi le basi anche della nostra emittente nel procedere in questo palinsesto. Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro buona giornata e spero di vederti presto, perché è un bel segno. Certo. Io ho anche il raffreddore oggi, quindi io giro per la città e vengo visto un po' male. Beh, addirittura, ma la psicosi, guarda, la psicosi è allucinante. Se poi giornali esatto, quotidiani, esatto, telegiornali mandano ovviamente per sensazionalismo, poi tutto quello che ci sta dietro anche dal punto di vista economico per i beni di protezione, che certo sono indispensabili, ma per chi ne ha bisogno veramente, non che uno va a prendere 100.000 mascherine e non sa neanche lui per quale motivo, hai capito? Veramente. Quello è la stupidaggine umana non ha limite. Non ha limite. A noi il coronavirus non ci ammazzerà. Noi saremo pronti al più presto per ricominciare la nostra attività, e spero che tutti quanti, insomma, i musei, i luoghi di cultura, certo, i teatri, insomma, tutti quanti. Questo è un augurio per tutti, perché siamo tutti, insomma, pronti a far vivere la cultura, la musica, la bellezza nel nostro paese, ecco.